notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Di Simone Spezia, ma alcuni giorni anche di altri. Un saluto da Gigi Donelli. Abbiamo una sigla standard. Ma Simone, come vi ha annunciato ieri, peraltro, se non ricordo male, oggi probabilmente in qualche località turistica, come spero anche molti di voi magari che ci stanno ascoltando. Tant'è, ancora un saluto dunque da Gigi Donelli, da Roberta Frisani in regia, da Laura Faggin, come sempre invece al suo posto in assistenza di questo programma, che ci saluta dallo studio e le notizie. Allora, partiamo ovviamente dai titoli, come sempre, poi andremo agli approfondimenti. Accordo sul nucleare iraniano, una svolta storica per le relazioni tra Iran e Stati Uniti, ma in molti già lo criticano. Il Kenya, Al-Shabaab, l'attacco al campus universitario nell'est, sono oltre 140 i morti. Il governo Del Rio promette: lavoreremo a stretto contatto con Cantone. E poi la Lega, le critiche alla Lega dopo la scelta di Toti per la Liguria. Ma parliamo anche di sport. Berlusconi e il dilemma Milan: i cinesi ci credono. Sono dunque due le cordate orientali nel futuro dei rossoneri. Eccoci qua allora, ripartiamo dalle notizie principali di questa giornata. Ovviamente l'accordo raggiunto in Svizzera dopo lunghissime trattative, che viene salutato di fatto dalle testate del mondo intero, si può ben dire come accordo storico e anche complesso. Allora io direi di cercare di illuminare un po' questa vicenda assolutamente importante e complessa, partendo dal servizio che abbiamo mandato in onda questa mattina, una riflessione di Alberto Negri sull'accordo. Sentiamolo. La svolta è storica davvero, soprattutto per 80 milioni di iraniani che da due generazioni si sentono isolati ed emarginati dalla comunità internazionale. Per loro il significato dell'intesa sul disarmo nucleare dell'Iran al 5+1 di Losanna va ben oltre la politica, le ambizioni delle potenze e persino l'economia, che pure verrà rilanciata dalla revoca graduale delle sanzioni. Si tratta di sperare in una condizione di vita diversa, di uscire dalla cappa che avvolge il paese, di battere un tempo che fa intravedere il futuro. È la prima volta, più di 35 anni dalla clamorosa rottura delle relazioni diplomatiche nel 1979, che Stati Uniti e Iran convergono su un accordo e si impegnano a rispettarlo. L'accelerazione di Losanna non è comunque la fine della storia. Lo stesso ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, ha sottolineato come l'intesa non comporti necessariamente una normalizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti. Come hanno detto i diplomatici presenti alla trattativa, questo è stato il primo passo per costruire una fiducia tra le parti che non c'è mai stata e che non c'è ancora. Ma è comunque un passo da gigante che cambia la direzione degli eventi in Medio Oriente. Un passo da gigante, dunque, lo definisce Alberto Negri, e un passo sicuramente che preoccupa molti, ma soprattutto Israele. Allora, abbiamo chiesto a Ugo Tramballi di aiutarci a capire un po' che quali saranno le implicazioni. Israele sarà più isolata, più preoccupata, quali potranno essere appunto le conseguenze nel rapporto anche con gli stati limitrofi. Sentiamolo. L'accordo con l'Iran, le dichiarazioni di Barack Obama e i volti soddisfatti di tutti i negoziatori sembrano isolare Bibi Netanyahu dal mondo. Eppure, nonostante le dichiarazioni fuori dalle righe del Premier, Israele non è affatto solo nella critica all'accordo con l'Iran e nelle preoccupazioni che solleva. Con lo Stato ebraico c'è l'Arabia Saudita e tutto il mondo arabo sunnita, dall'Egitto agli Emirati e, fuori dal mondo arabo, fino alla Turchia. Nello scontro che agita la regione, forse già la prima grande guerra medio orientale fra sauditi e iraniani, sciiti e sunniti, l'accordo firmato in Svizzera rafforza Teheran. Israele e Arabia Saudita è un'alleanza piuttosto inusuale, infatti non è un'alleanza con contenuti e impegni comuni. I sauditi sono disposti a riconoscere Israele in cambio dello Stato palestinese, ma non faranno mai una vera alleanza con lo Stato ebraico. Tuttavia, se il punto debole, quello che potrebbe far fallire l'accordo sul nucleare iraniano, è a Washington, nel congresso controllato dai repubblicani, attraverso le loro lobby e il loro denaro, Israele e Arabia Saudita possono far fronte nella battaglia comune contro Barack Obama. E questo era dunque Ugo Tramballi. L'Iran, insomma, in primo piano, torneremo a parlarne tra l'altro più tardi, intorno alle 13.15, con il direttore dell'ISPI Paolo Magri. Ci sono davvero parecchi spunti intorno a questo tema. Per ora mi limito ad aggiungere solo una nota che arriva dall'Unione Europea e dice: il primo obiettivo dell'accordo sul nucleare iraniano è impedire che Teheran possa dotarsi di armi atomiche. Così l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, lo ha detto in mattinata Sky TG24, sottolineando che l'intesa risponde all'ansia di sicurezza nella regione, anche di Israele, e aggiunge: se riusciremo a finalizzare l'accordo entro giugno e l'Iran assumerà un ruolo di attore responsabile in Medio Oriente, ne avremo tutti da guadagnare. Questo per quanto riguarda l'Iran, ma la pagina degli esteri, di fatto, da cui abbiamo aperto, è purtroppo molto più complicata. Allora ripartiamo invece da quanto è accaduto in Kenya. Sentiamo il servizio della nostra Livia Zancaner. Sono molto triste nell'informare la nazione che un gruppo di terroristi ha attaccato il Garissa University College. Con queste parole il presidente del Kenya ha annunciato ieri quanto successo a Garissa, città a 150 chilometri dal confine somalo. All'alba un comando di jihadisti di Al-Shabaab ha fatto irruzione nel campus dove c'erano circa 800 studenti. Sono entrati come furie nei dormitori urlando, chiedendo chi sono i kafir, i non credenti, cioè i cristiani. Hanno raccontato alcuni testimoni: sparavano all'impazzata, non so come facciamo a essere vivi. I miliziani hanno diviso gli islamici, che sono stati liberati, dai cristiani, presi come ostaggio, uccisi, alcuni decapitati. 500 sono riusciti a scappare, almeno 4 assalitori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. I miliziani hanno colpito perché sono in guerra. Nell'ottobre 2011 le truppe keniane sono entrate in Somalia per fermare gli jihadisti. Come vendetta, Al-Shabaab ha ucciso 67 persone in un centro commerciale a Nairobi un anno e mezzo fa, per poi arrivare alla strage di ieri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Africa orientale dunque una Pasqua davvero drammatica, una situazione in evoluzione e ormai un conflitto che va avanti da molti anni in quella parte, appunto, al confine tra il Kenya e la Somalia. Ma adesso torniamo invece a occuparci di cose di casa nostra, partendo dal rimpasto, dal giuramento di Del Rio. Mancano ancora almeno una casella, quella degli affari regionali, ma su questo ci aiuta a fare il punto Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. L'emergenza corruzione al centro del programma del nuovo ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio. Tutto questo alla luce anche degli scandali di questi giorni. Ricordiamo anche quello che ha coinvolto Ercole Incalza e il predecessore di Del Rio, Maurizio Lupi. Il neo ministro ha giurato ieri e spiega che bisogna lavorare con trasparenza. L'Italia è la casa nostra e le opere pubbliche, i soldi pubblici nella nostra testa sono come i soldi privati, anzi di più. E a questo proposito Del Rio annuncia anche di voler collaborare con Raffaele Cantone su Expo Mose e grandi opere italiane. Ovviamente l'Expo di Milano è in particolare tra i primi dossier del ministro, una grande sfida, dice Del Rio, che siamo riusciti a raddrizzare abbastanza dopo un momento di difficoltà. Resta poi aperta nel governo la questione del nuovo centrodestra. La casella vuota è quella del ministro degli affari regionali. Il premier Matteo Renzi chiede una donna al nuovo centrodestra, magari Dorina Bianchi oppure Valentina Castaldini. Vuota però anche la casella lasciata da Del Rio, quella di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in pratica la testa di ponte tra Palazzo Chigi e ministeri. A te, Gigi. Grazie Elisabetta Fiorito. E noi restiamo però in zona, restiamo dunque a Roma, e saluto Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, buongiorno. Con te parliamo invece di un altro aspetto, almeno della politica, che sta agitando gli schieramenti. Inevitabilmente si avvicina il tempo delle consultazioni e ieri in particolare, come dire, ad agitarsi è stato il turno della Lega, in particolare rispetto evidentemente alla candidatura in Liguria. Vincenzo, qual è la situazione? Sì, è così, Gigi, un accordo quello tra Berlusconi e Salvini che lascia dietro di sé molte polemiche, soprattutto nel Carroccia, in particolare per il caso Liguria, dove il candidato della Lega ha dovuto fare un passo indietro in favore di Toti di Forza Italia. Partiamo allora da qui, è chiaro che per noi è una ferita che sanguina, ci sono molti scontenti, adesso in Liguria sarà tutto più difficile, spiega proprio Edoardo Rixi, il vice segretario nazionale della Lega Nord, che da 2 mesi stava facendo campagna elettorale in Liguria. Al di là dei malumori locali, però, l'intesa nel centrodestra punta ad ottimizzare la situazione per ottenere quella svolta che potrebbe incidere anche sui futuri equilibri politici nazionali. Occhi puntati allora anche sul Veneto, con Zaia, candidato unico del centrodestra, nella sfida da una parte con il PD e la Moretti e dall'altra con l'incognita rappresentata da Tosi. Caso a parte la campagna, dove il Cavaliere stringe un patto di desistenza, la partita con il PD è così aperta. Noi con Salvini non presenterà infatti delle liste contro il candidato di centrodestra e governatore uscente Caldoro. Quindi Forza Italia potrà accordarsi con l'NCD di Angelino Alfano, che però non ha ancora sciolto la riserva. Tutto da fare invece in Puglia per Forza Italia, intesa ancora lontana tra Fitto e i vertici del partito. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Non ci sono purtroppo più speranze di trovare vivi Maro Gaccostoli, 35 anni, e Simon Vasile, 39, due marittimi romeni imbarcati sul motopesca pugliese Sparviero. Il bilancio nel naufragio al largo di Civitanova Marca sale dunque a 4 vittime. Con loro hanno perso la vita anche Michele Fini, di 25 anni, Giorgio Toma Viorel, di 19. Sopravvissuti invece Leonardo Coccia e Aldo Leo di Cagnano di Varano, in provincia di Foggia. Oggi ancora il mare è in burrasca, le ricerche sono difficili. Un natante dei vigili del fuoco sta scandagliando con il sonar la zona appunto della disgrazia, ma per ora non c'è nessun tipo di segnalazione, quindi purtroppo le speranze sembrano davvero perse. E ora parliamo invece di vacanze pasquale, dunque, con cui di fatto abbiamo aperto, all'insegna della cultura, dell'arte per gli italiani, e speriamo non solo, che quest'anno peraltro resteranno in prevalenza a casa. Sentiamo il servizio. La maggior parte degli italiani, ben l'85%, non si sposterà per le vacanze pasquali, secondo le stime di Federalberghi. Ma quest'anno, per chi resta in città, c'è una buona notizia. La domenica di Pasqua coincide con la prima domenica del mese e grazie all'iniziativa ministeriale Domenica al Museo, tutti i musei e siti archeologici statali saranno gratuiti. Dal Colosseo a Roma agli Uffizi a Firenze, dal Cenacolo Vinciano a Milano ai siti archeologici di Ercolano e Pompei. Chi ha deciso di partire ha scelto per lo più località sciistiche, favorite dalla Pasqua. Pasqua bassa. Sulle Alpi, infatti, si attende una buona affluenza di turisti, anche se in prevalenza stranieri. Così il presidente di Federalberghi Trentino, Luca Libardi. Le stazioni invernali stanno lavorando bene, arriveranno lunedì da Spezia con una buona occupazione, non ci sarà il pieno nelle località non invernali, però insomma complessivamente possiamo dire bene. Meno gettonato invece il mare, complice il maltempo previsto. E anche in Sicilia gli italiani preferiranno le città alle spiagge. Il vicepresidente Federalberghi Sicilia, Nicola Farruggio. Gli italiani saranno i classici, diciamo, turisti da gita fuori porta. Diciamo che nel periodo di Pasqua e Pasquetta non si sposteranno più di tanto, rimarranno più o meno nelle zone vicino casa. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo dunque per quanto riguarda un punto sulle vacanze. A proposito, mentre ci ha raggiunto Carlo Genta, calcio fermo? No, si gioca. Si gioca. Come sono distratto. Era ora, perché sono 2 settimane. Ah già, la nazionale e tutte le attività. La nazionale, cioè il classico sabato di Pasqua, che peraltro sarà un sabato interessante perché è aperto a 12:30 da Roma-Napoli, una partita. Quindi squadre già in campo. Squadre già in campo domani, 12:30, partita che evoca freschi ricordi, certamente tristi. Ricordiamo la morte di Ciro Esposito, avvenuta nella precedente occasione, nel precedente incontro tra queste due squadre, anche se in un altro scenario. Quindi una partita particolare, strana e importantissima, perché il Napoli deve vincere per riavvicinarsi alla Champions League, alla zona Champions League. La Roma non può perdere, perché ha appena riannodato i fili a Cesena, e quindi una partita con molte incognite e una partita molto, molto interessante. Poi nel pomeriggio tutte le altre. L'Inter riceve un Parma cui lo sponsor deve pagare l'albergo e il soggiorno a Milano. La Lazio, conoscendo già il risultato di Roma-Napoli, andrà in campo a Cagliari alle 15. il Milan a Palermo, e poi in serata c'è la Fiorentina alle 18.30 che riceve la Sampdoria, anche questa partita molto interessante per i vari snodi di classifica. La Juventus chiude ad Empoli, in casa con l'Empoli alle 21, ma per la Juventus adesso è allenamento. Ecco, per la Juventus è allenamento, e per il Milan invece abbiamo detto nei titoli, insomma, addirittura una seconda cordata orientale. Che succede? Sì, a quanto pare, insomma, sempre più verso oriente il Milan, perché ieri c'è stato questo sono state queste due piste, una smentita con un imprenditore, un noto imprenditore cinese, proprietario di una grande azienda di bevande, un Bibitaro, non smentita da tutte e due le parti, però Berlusconi ieri sera ha incontrato, e questo è confermato, Richard Slee, che è un uomo d'affari di Hong Kong, suo amico, comparso diverse volte al suo fianco, e a quanto pare sarebbe l'intermediario e sarebbe legato ad una cordata di imprenditori con capitali cinesi che stanno provando a sfidare il Milan invece al noto Mr. B thailandese. Quella trattativa è in corso da tempo ed è molto più avviata. In quel caso si parla di capitali thailandesi, di Singapore ed in parte cinesi, quindi anche in quel caso una cordata, un incontro sarebbe previsto dopo Pasqua con Mr. B, che attualmente è in vantaggio comunque sull'acquisto di un Milan che è sempre più vicino al passaggio di proprietà. Ecco Carlo, perché non segue, diciamo, tutti i giorni la parte calcio, quindi è tutto vero, è tutto davvero la volta in cui le squadre di Milano vanno in Oriente. L'Inter c'è già in Indonesia. Beh Gigi, tanto tuono che piove, ormai ci ricordiamo, voci sulla cessione del Milan si rincorrono da anni, puntualmente smentite nel giro di poche ore da Arcore. In questo caso è chiaro che Berlusconi sembra davvero intenzionato a vendere. Si parlava di una quota di minoranza, probabilmente avverrà, come è stato in parte per l'Inter, un passaggio graduale, di questo si sta parlando, quindi si dice prima una quota intorno al 25%, però che andrà a salire, ora pare, nel giro di non molto, forse un anno, fino al controllo della società. Tutti in Oriente. Grazie a Carlo Genta, grazie a Carlo di averci aggiornato. E mentre le milanesi dunque guardano a est, noi vediamo un po' come la situazione sulle strade, le autostrade italiane, che appunto sono giornate di festa ma anche di spostamenti. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli, mentre sono le 13.19 minuti. Un saluto dunque da me, ma anche da Roberta Frisani che è in regia oggi, da Laura Faggin come sempre in assistenza. Abbiamo aperto l'edizione, il GR, parecchi GR questa mattina, parlando dell'accordo raggiunto in Svizzera sull'Iran, e di questo parliamo cercando magari di cogliere alcuni aspetti che stanno dietro la notizia con il direttore dell'ISPI Paolo Magri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, prima domanda, vittoria o tragedia? Questo addirittura è un po' l'estremizzazione, ma insomma è davvero una grande vittoria della diplomazia internazionale, come affermano i partecipanti? Beh, aspettiamo a cantare vittoria totale, ma è sicuramente un risultato positivo. Momento storico l'hanno definito i 5+1 che negoziavano, errore storico l'ha definito Netanyahu, credo abbia più torto Netanyahu. Ecco, e naturalmente lo verificheremo. Il fronte americano-saudita, mi spiego, la vittoria naturalmente va condivisa con gli iraniani, che escono anche con questa decisione, con questa posizione, dal loro isolamento diplomatico. Come mai si raggiunge un accordo nonostante in fondo gli interessi americani-sauditi in questo momento, vediamo lo Yemen del Sud, insomma vediamo la situazione in Siria, portano in un'altra direzione? Perché serviva a chiudere una vicenda che si trascina da 35 anni, l'isolamento, le sanzioni, e che toglievano di scena nella regione un attore importante, che non è detto che diventi particolarmente amico e particolarmente prono alle aspettative che abbiamo nell'Occidente, ma che quantomeno potrebbe essere meno intrusivo, come è stato in questi anni, su fronti aperti come la Libia, la Siria, il Libano e lo Yemen. Ecco, un Iran in chiave anti-ISIS è più prezioso che mai? Questo è uno degli aspetti che ha giocato sicuramente. è sicuramente il nemico principale, il più attivo nemico dell'ISIS. Fino adesso ha combattuto al nostro fianco senza che potesse essere sdoganato, senza che potesse essere formale. Non è detto che questa alleanza diventi formale, l'accordo non è ancora chiuso, ma sicuramente c'è maggior chiarezza. A proposito di ruoli e di chi vince e chi perde, l'Europa, naturalmente l'Europa in questo contesto ha sempre svolto un ruolo di collante, non viene quasi mai considerato in prima fila o addirittura a livello decisivo, però si può riconoscere questo accordo come una vittoria della faticosa diplomazia europea? Questo era un negoziato fondamentalmente, ed è ancora, perché non è finito, un negoziato fra Stati Uniti e Iran, e fra, al di là di chi era seduto al tavolo, fra i falchi del Congresso americano che entreranno in scena nelle prossime settimane e la parte dura dell'Iran, l'Ayatollah Supremo, la guida suprema, eccetera. Però non è detto e non è da dire che l'Europa e gli altri attori presenti non abbiano giocato un ruolo, l'Europa ma anche la Russia e anche la Cina, e in questo è l'aspetto molto positivo. In un mondo dove si discute poco e si avanza con le armi, soprattutto in Medio Oriente, questo è un prezioso esercizio di diplomazia multilaterale che dobbiamo appunto considerare prezioso e davvero tutelato. A proposito di Russia, mentre si fa una gran fatica a parlare con la Russia, tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia sul fronte dell'Europa orientale, invece si ritrova evidentemente un dialogo su questo dossier specifico. La Russia, diciamo, sta utilizzando anche, sta investendo sulla sua tradizionale legame con la Siria e quindi di nuovo in una chiave anti-ISIS. È anche questo uno spazio dove la Russia può ritrovare un po' di pace nei rapporti con l'Europa e l'Occidente? Sicuramente il fatto di avere attorno al tavolo un ministro degli esteri, Lavrov, con cui fino a pochi giorni fa e settimane fa si era in durissima contrapposizione, è un aspetto positivo di questo esercizio di diplomazia multilaterale. La Russia sta cercando di riprendersi un ruolo nella regione, il dialogo con l'Egitto, la Libia, la Siria, e anche in questo negoziato ha giocato un ruolo importante, ma ha giocato un ruolo positivo. Il fatto che l'uranio iraniano vada in Russia è un tipico esempio di gioco di sponda che i potenti hanno fatto per arrivare a un risultato finale e positivo. Ecco, Paolo Magri, a proposito di contropartite, dal punto di vista iraniano una delle più importanti, anzi forse la più importante, è quella che riguarda le sanzioni. Ora, non è che oggi tutto sia sparito, le sanzioni sono ancora lì. Quale prospettiva si apre oggi su questo fronte? Questa direi che è la parte più delicata del negoziato ancora non risolto. Sulla parte del nucleare, delle centrifughe, dello stock, eccetera, la sensazione che si ha leggendo il comunicato è che l'Iran abbia accettato molte delle richieste degli Stati Uniti e degli altri negoziatori. Sulle sanzioni ci sono spazi di interpretazioni diverse, c'è molta vaghezza, non è chiaro quando verranno tolte quelle americane, non è tanto chiaro quando verranno tolte quelle europee e quelle dell'ONU, non è molto chiaro quando e come potranno essere reintrodotte con un automatismo qualora l'Iran non rispetti le regole. Quindi questo è uno spazio dove l'Iran non ha ottenuto molto, questa è la sensazione, e dove potrebbero annidarsi i dettagli pericolosi nel periodo che va da ora al 30 giugno. Insomma, ancora molta strada da percorrere. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi. Avete sentito, insomma, quanti temi, sottotemi, che poi non sono sottotemi, perché ciascuno di questi è davvero un tema degno di pubblicazione, cosa che infatti accade. Allora, la scena internazionale, dalla scena internazionale torniamo alla scena nazionale, ma con uno sguardo sul mondo. Infatti, il servizio che condividiamo ora ci riporta sul fronte di Expo che, come ormai abbiamo ripetuto, crediamo abbastanza all'infinito, aprirà i battenti il 1 maggio. Come sappiamo, esistono anche tutta una serie di interrogativi che riguardano appunto il completamento delle opere dei singoli padiglioni. Intanto, dicevo, c'è una chiusura, cioè tra un paio di giorni Expo chiude ai giornalisti, chiude ai visitatori non strettamente addetti ai bel lavoro e poi ci rivedremo il 1 maggio. Servizio. Dal 5 aprile il cantiere di Expo sarà chiuso alle visite. Giornalisti e pubblico potranno rientrare solo per l'inaugurazione del 1 maggio. Cosa succederà là dentro in questi giorni? Lavoro, lavoro, lavoro, 24 ore su 24, per arrivare pronti alla meta. Due giorni fa, dopo aver visitato il cantiere, il segretario generale del Bureau dell'Esposizione Internazionale, Vicente Lossertales, ha professato ottimismo e ha detto che se anche qualche paese sarà in ritardo, al massimo completerà i lavori dopo l'inaugurazione. Una concessione che Lossertales non è disposto a fare al paese ospitante, però. Sul suo padiglione, ha detto, l'Italia non può fallire. Un messaggio chiarissimo che ieri ha riunito intorno a un tavolo i team legali di Expo S.p.A. e Italiana Costruzioni, impresa capofila della cordata che lavora al padiglione Italia, con l'obiettivo di concordare sugli extra costi necessari a garantire il completamento dell'edificio entro il 1 maggio. Un'intesa raggiunta dopo 10 ore. Le carte saranno subito inviate all'Avvocatura dello Stato e all'ANAC per il via libera, ha detto il commissario unico di Expo Giuseppe Sala, che non ha voluto rivelare per quale cifra sia stato chiuso l'accordo, ma ha spiegato che il costo totale del padiglione, allestimenti inclusi, arriverà a circa 92 milioni. Il governo ne ha stanziati 63, ma secondo Sala, grazie agli sponsor, il bilancio sarà in pareggio. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Insomma, anche nei costi c'è una parte dei misteri di Expo e delle grandi operazioni, dei grandi eventi che ormai fanno parte del nostro tempo. Adesso ci salutiamo un attimo, prima però vi leggo semplicemente un'agenzia battuta che ci riporta un po' al tema del giorno, che recita: il Consiglio di Difesa del Governo di Israele ha respinto in maniera compatta l'intesa raggiunta tra i 5 più nell'Iran sul nucleare. Così si legge in un comunicato pubblicato al termine della riunione di 3 ore convocato dal premier Benjamin Netanyahu. Diciamo, nessuna sorpresa su questo fronte. Ci sentiamo tra poco. Voglio dire, avevo paura, certo, ma continuavo a pensare, questa è la verità. Intrecci, passioni, avventure, amori. Non ti lascio solo, ma oggi credo che tu abbia un appuntamento. Asserri, portamelo qui! Per te 1 milione di volte! Audiogrammi, in radio come al cinema. Torna con nuove storie e nuove emozioni. Questo non è un buco. E che cos'è? Il posto dove si sta quando si muore. La domenica sera, alle 20:10. Pensiamo sempre che la fortuna sia ciò che non si ha. Audiogrammi. Le più belle storie dei film, raccontate in radio. Anche in podcast su radio24.it. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono le 13:33 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli, da Roberta Frisani, da Laura Faggin e da Filippo Aureggi, che ci ha raggiunto in regia nel frattempo. I titoli ci dicono che oggi è la giornata dell'accordo sul nucleare italiano, dunque la svolta storica di cui abbiamo parlato nella prima parte, ma anche del drammatico attacco all'università in Kenya di Al-Shabaab, le promesse del governo su il lavoro da svolgere sul fronte delle grandi infrastrutture, dunque il giuramento del Rio, ma anche le critiche, come abbiamo accennato, alla Lega dopo la scelta di Toti in Liguria. Ma adesso cambiamo scenario, ci spostiamo a est e, come anticipazione del nostro ospite, vi ricordo che il 6 aprile del 2014 è una data che, come dire, qui ricordiamo poco, ma che per l'Ucraina orientale è l'inizio ufficiale, cosiddetto. Le guerre si definiscono sempre a posteriori, quando gli scontri diventano particolarmente mortali poi li troviamo sui libri, ora lo troviamo su Wikipedia o sul web. Dunque 6 aprile 2014, inizio della guerra in Ucraina orientale. Noi andiamo nel luogo centrale di questo conflitto, cioè la città di Donetsk in Ucraina orientale, dove troviamo Andrea Ciocca, capo progetto di MSF. Andrea, buongiorno innanzitutto. Buongiorno anche a te e a tutti gli spettatori. Allora, Andrea Ciocca, che MSF ovviamente sta per Medici Senza Frontiere, l'avete sentito, è già stato nostro ospite e noi lo ringraziamo perché, come dire, fa parte di quegli ospiti che contribuiscono a raccontare l'attualità, la realtà. Lo ha fatto per parecchio tempo. Da quanto tempo, Andrea, sei a Donetsk? Sono qui da 5 mesi, quindi diciamo quasi alla fine, tra un mese dovrei finire la mia missione. Ecco, immagino mesi impegnativi. Quando ci siamo sentiti nelle prime occasioni erano i giorni dei bombardamenti, erano i giorni in cui, e correggimi se sbaglio, tu sei di fatto a forse 2-3 chilometri da quella che è stata per parecchio tempo la linea del fronte. Un po' di più in realtà, ovviamente abbiamo cercato di stabilire i nostri uffici, i nostri alloggi lontano dal tiro dell'artiglieria, però siamo non più di 15-20 chilometri dal fronte. Quanto disti dall'aeroporto il vostro ufficio? 20 chilometri. Ecco, l'aeroporto di Donetsk, che è stato al centro delle più furiose battaglie appunto tra le forze ucraine e quelle che invece sono le forze ribelli. Ecco, Pasqua tradizionalmente nel mondo orientale è un momento importante. Qual è il clima in città di questa Pasqua 2015? Dalla metà di febbraio, dal 15 di febbraio, è in vigore il cessato il fuoco e improvvisamente il clima, diciamo lo scenario in città è cambiato. Non ci sono più bombardamenti così intensi come c'erano stati fino al giorno prima dell'entrata in vigore. La gente è molto più rilassata. Alcune delle persone che si erano rifugiate nei bunker hanno cominciato ad uscire e la parte di popolazione che si era allontanata appunto dai quartieri più bombardati, più colpiti dall'artiglieria, sta cercando piano piano di tornare, valutare i danni, sistemare un po' le case. C'è un senso di timida speranza. Non molti sono pronti a scommettere che la tregua durerà molto, però per il momento diciamo si tira un sorriso di un respiro di sollievo e si cerca di vivere, di tornare un po' a una vita in qualche modo normale. Ecco, solo ieri leggevo sulle agenzie internazionali dell'arrivo di un nuovo convoglio di aiuti umanitari dalla Russia. Lo ricordiamo, Donetsk di fatto è allo stato attuale un territorio ucraino, ma sganciato dall'unità territoriale appunto di Kiev. In questo senso la presenza russa si nota di più o da questo punto di vista non è cambiato molto? Come giustamente dici, Donetsk insieme anche a Lugansk è una di queste due province, di queste due aree che hanno dichiarato indipendenza dall'Ucraina. C'è una linea di contatto con i territori sotto il controllo del governo ucraino che si è gradualmente congelata ed è diventata sempre di più quasi un confine internazionale. Nelle ultime settimane le autorità, i posti di blocco ucraino hanno cominciato anche a mettere un timbro sui passaporti degli stranieri. Questo è un segnale che gradualmente il governo sta cedendo la proprietà, tra virgolette, certo, e quindi anche il supporto ai propri cittadini. Dall'altra parte il confine con la Russia è ufficialmente ancora gestito dall'Ucraina, però ovviamente la realtà è che ci sono dei traffici tra la Federazione Russa, quello che passa dalla Federazione Russa e arriva qui sono degli aiuti umanitari e dei supporti militari. Come dice giustamente, sì, è arrivato ultimamente l'ennesimo convoglio umanitario da parte della Russia, credo che siamo al 22esimo. Però sì, è una goccia nell'oceano dei bisogni di questa popolazione. Ecco, a proposito di bisogni, che cosa fate in questo momento? Quali sono le vostre priorità? Allora, in questo momento i combattimenti sono diminuiti drasticamente, quindi i bisogni acuti, diciamo quelli legati ai feriti gravi, passano un po' in secondo piano. E rimangono però i bisogni cronici, i medicinali come anche il cibo in questa zona scarseggiano e il fatto che tanto un confine quanto l'altro siano bloccati fa sì che sul mercato manchi tutto. Noi cerchiamo, visto che il corridoio umanitario ancora, sebbene in mezzo a tante difficoltà, tiene, cerchiamo di importare i medicinali che servono alla popolazione e sia collaborando con gli ospedali locali sia utilizzando il nostro personale medico, di raggiungere anche quella parte di popolazione che magari lontano dalle città e dai centri più grandi ha bisogno di assistenza medica. Nella grande campagna dell'Europa orientale. Grazie ad Andrea Ciocca, buona Pasqua anche a lui e naturalmente con il desiderio di estenderlo all'intera comunità di quella città, al di là appunto delle divisioni, della violenza, nella speranza che questa situazione, che di sicuro non è soddisfacente, ma non è neanche quei missili che piovevano sulla città fino a 2 mesi fa. Grazie ad Andrea Ciocca, lo ricordo, capo progetto Medici Senza Frontiere a Donetsk, Ucraina orientale. Ora, per non dimenticare anche cose drammatiche che accadono all'interno del nostro paese, il nostro Daniele Biacchessi ci porta a ricordare L'Aquila 6 anni dopo. 6 aprile 2009, è la notte tra domenica e lunedì e fa freddo. L'Aquila dorme ed è immersa in sogni tranquilli, come tutte le città italiane. Pochi, pochissimi camminano per la città. Del resto è notte, tra poco ci si sveglia, si va in ufficio, a scuola, in macchina, a piedi, con gli autobus. Si sente solo il rumore dei pneumatici di qualche auto e quello dei mezzi della nettezza urbana che pulisce le strade. Da lontano si ode il latrato dei cani. Qualche semaforo è spento, il giallo in mezzo lampeggia a tratti. Dicono che in città è tutto normale, e invece no. Sono le 3:32 minuti 39 secondi. Il terremoto è fatto così, non ha un'anima. Tutto accade in pochi secondi. Le grida, i volti scavati dalla paura e dal terrore, le labbra livide, il corpo disorientato da un equilibrio precario, la terra instabile che balla sotto i piedi. Prima avverti un leggero vento caldo, senti nell'aria qualcosa che non riesci subito a decifrare, uno strano presentimento, quasi un lugubre presagio. Qualcuno vede le luci sismiche, le chiamano così gli scienziati. Luci diffuse, nuvole arrossate, sfere luminose. Altri notano un leggero abbassamento dell'intensità dei segnali radio e un aumento marcato dell'attività elettrica. La terra scuote il tuo corpo e ti scoppi impotente. Puoi soltanto ripararti dal tiro incrociato dei cornicioni, dei pali della luce, delle strutture e delle case che si sbriciolano dalle crepe della terra. Sei solo anche in mezzo a migliaia di persone che fuggono, ma non sanno dove vanno. Aspetti con ansia che tutto finisca, rimediando rifugi e spazi aperti. Le persone intorno a te mormorano frasi incomprensibili, si stringono, si abbracciano, poi si lasciano e ancora si uniscono. 15, 20, 21, 22, 23 secondi, 23 secondi. 23 secondi diventano un'eternità, il frutto di una vita di un sudore, il lavoro si dissolve. E dopo il terremoto scende un silenzio irreale, già ascoltato più volte in Friuli, in Irpinia, in Umbria. Alla fine si contano i morti, tanti, troppi. 309 vittime, 1600 feriti, 65.000 sfollati. 6 anni dopo la ricostruzione va avanti. Le case che ci sono sufficienti ad ospitare gli attuali residenti dell'Aquila. Altre non ne servono assolutamente, sarebbero solo uno spreco o un regalo a chi le costruisce. Quel che serve oggi è un progetto di città e quello a oggi manca ancora. E questo naturalmente era Daniele Biacchessi. Sono le 13:44 minuti e 15 secondi. Tra poco, dopo la viabilità, avremo naturalmente l'appuntamento consueto con Mario Platero che ci porta sulla costa orientale degli Stati Uniti, ma appunto strada facendo sentiamo insieme le notizie sul traffico.